e denari. E allora in questi giorni d'estate noi abbiamo tirato fuori ombrellone, occhiali, pinne, borse da spiaggia e ci siamo accomodati in un angolo calmo e tranquillo per parlare insieme di relazioni, emozioni, tutto ciò che può servire, aiutare il nostro benessere psicologico. Per tutta la settimana il mio compagno di ombrellone sarà Alberto Pellai, che voi ben conoscete, medico, psicoterapeuta, ricercatore in igiene e sanità pubblica. Insieme a lui faremo un bel viaggio dentro alla nostra vita, ma anche alla vita di alcuni ospiti che ci verranno a trovare e che ci aiuteranno ad affrontare e risolvere qualche piccolo grande problema della vita di tutti i giorni, che almeno in estate possiamo affrontare con cuore più leggero e anche un pochino più con calma. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, che bello essere sotto il tuo ombrellone. Accomodati. Eccomi allora. Qua. Oggi una puntata ricca e densa di emozione, molti temi, perciò non perdiamo tempo, partiamo da quella che possiamo definire, Alberto, una questione di famiglia. Nel nostro spazio dedicato alle relazioni familiari, oggi abbiamo una richiesta, ci arriva direttamente da due genitori che sembrano un po' preoccupati. L'ascoltiamo insieme e poi ne parliamo con Alberto Pellai. Siamo i genitori di Marta, 11 anni, prima media conclusa con grande successo. Abbiamo tenuto duro fino alla fine di questo anno scolastico, ma poi anche noi abbiamo ceduto, anche se ci sarebbe piaciuto aspettare fino alla fine della terza media. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che anche nostra figlia, dal giorno in cui è uscita la sua bellissima pagella, è diventata una nativa digitale. Le abbiamo comperato uno smartphone. Ce lo chiedeva da 2 anni. Tutte le sue amiche già lo possedevano, lei era l'unica senza. Ci accorgiamo però che stiamo vivendo un'estate diversa da tutte le precedenti. Lei è davvero sempre sconnessa da noi e connessa con i suoi amici online. WhatsApp poi ci sembra una persecuzione. Ogni 2 per 3 le arriva un messaggio da qualcuno. Vorremmo aiutarla a prendersi il meglio dalla tecnologia, ma senza soffrire di pesanti effetti collaterali. C'è un metodo da consigliarci? Alberto, qua c'è da lavorare e vedo dalla tua faccia che questo è proprio pane per i tuoi denti. Comincia un po' a farci capire come dovremmo inquadrare la richiesta di questi due genitori. Hanno ceduto, hanno tenuto duro fino... Sembrava proprio una battaglia, eh? Ma una... poi... Hanno perso. Ma io credo che i genitori di Marta si trovano in questa estate nella situazione di moltissimi altri genitori. La pagella e la promozione è uno di quei passaggi che spesso significa per un figlio ottenere finalmente il tanto agognato smartphone e cellulare. Quindi loro presumo che si trovino in buona compagnia in questo momento, tante altre mamme e papà che devono affrontare la stessa cosa e la mia percezione... Hanno regalato quindi lo smartphone, l'oggetto del desiderio ai loro figli promossi. E tra l'altro sono stati anche già molto bravi, perché loro hanno resistito fino agli 11 anni, quando ormai in media negli ultimi 2 o 3 anni l'età di accesso al primo cellulare è addirittura anticipata ai 9-10 anni, tra la quarta e la quinta elementare. Un bambino su 2 possiede già il proprio smartphone. Ma secondo te c'è un'età ideale? Ma io direi l'età è quella in cui lo smartphone diventa veramente un po' utile e necessario. Io a casa mia, ma credo di essere ormai uno proprio degli ultimi rimasti, ho dato la regola ai miei 4 figli che alla fine della terza media. Noi però abbiamo anche il vantaggio che viviamo in una piccola città ed effettivamente i miei figli hanno sempre un adulto di riferimento a casa contattabile e quindi... magari hanno una situazione già più protetta. Ad alcuni bambini lo smartphone è molto utile, per esempio i bambini di figli separati possono davvero avere bisogno di uno smartphone per essere raggiunti da mamma e papà. Rimane dato di fatto che la ricerca però dice che i nostri figli la cosa che fanno meno quando hanno in mano uno smartphone è ricevere e fare telefonate, lo usano per loro tutt'altro. Si connettono, infatti la nostra mamma dice nella lettera è sempre sconnessa da noi e connessa con i suoi amici online. È proprio quello che sta succedendo a Marta, credo è proprio questo, no? Ha in mano una sorta di scatola magica, uno scrigno del tesoro, e quando hai 11 anni lì dentro trovi un mondo che è praticamente impossibile trovare nella vita reale. E poi trovi davvero un'iperconnessione, cioè in ogni secondo, in ogni momento tu puoi essere in contatto con qualcun altro, tra i tuoi amici, dentro ai tuoi gruppi WhatsApp. È davvero tanta roba, per dirlo come lo dicono i ragazzi. E uno si domanda come genitore: ma io ho un ruolo in tutto questo? Cioè devo far succedere le cose e lasciarle andare così come vanno, oppure no? E un'altra domanda che ci facciamo come genitori è che perché si riuniscono a gruppetti, amiche, amiche e amici, hanno tutti lo smartphone, non si parlano, ma invece che connettersi con la persona che hanno davanti, quindi con l'amico in carne e ossa, parlano con l'amico attraverso lo schermo. Credo che questa sia proprio, quando la osserviamo, un po' una degenerazione del sistema. Ci sono davvero tantissimi gesti automatici che possiamo osservare come adulti e che ci dicono che i nostri figli forse stanno un po' perdendo, no? Il controllo rispetto all'uso dello strumento, ed è lo strumento che sta usando loro. Quello che dici tu: ho davanti una persona e magari le mando un messaggio tramite WhatsApp, o ancora ora ho il cellulare in mano e ogni 5 secondi guardo dentro lo schermo per vedere se mi è arrivato un messaggio. Una cosa è certa: riescono a fare più cose contemporaneamente. Sì, direi che questa è proprio un po' anche la natura dello strumento. Offre talmente tante possibilità d'azione che in automatico fa diventare multitasking il suo utilizzatore. Ma di nuovo, come genitori dovremmo domandarci: ma è davvero un vantaggio che un undicenne o un dodicenne faccia 10 cose contemporaneamente? Perché se mentre stai, per esempio, studiando, anche se adesso è tempo di vacanza, se mentre stai studiando ti arrivano in un pomeriggio 100 segnalazioni sonore relative a 100 messaggini che stanno entrando nei tuoi gruppi WhatsApp, io domanderei alle mamme e papà: o vostro figlio è un supereroe che dice prima finisco di studiare Napoleone e poi solo allora leggerò tutti i miei 100 messaggi, oppure se funziona come noi, voi dovete aspettarvi che quando studia Napoleone interrompe 100 volte il flusso di attenzione e di concentrazione. Questo ha certamente un impatto sul suo apprendimento. A proposito di genitori, ha fatto grande scalpore il contratto in 18 regole che una mamma blogger statunitense ha chiesto di sottoscrivere al figlio dopo avergli regalato un iPhone. L'importanza delle regole. Lei ha fatto proprio un patto. Addirittura un contratto, e quindi l'ha fatto proprio sottoscrivere a suo figlio, gliel'ha fatto firmare. L'iniziativa ha fatto il giro del mondo. Qualcuno l'ha presa come pazza, perché così precisa nel definire che cosa si può e non si può fare con un iPhone. Invece altri l'hanno un po' così descritta come l'eroina. Io sono un grande sostenitore della sua strategia. Lei ha proprio fermato il figlio e ha detto: nel momento in cui ti metto in mano uno smartphone, io non mi devo occupare solo del piano tariffario, ma devo avere insieme a te un vero e proprio progetto educativo di cui io, mamma, sono responsabile. Alberto, allora abbiamo deciso di ascoltare l'inizio di questo contratto e di commentarlo naturalmente insieme. Chissà che i nostri ascoltatori ne prendano spunto, magari ne prenderanno le distanze. Caro Gregory, ora sei il fiero proprietario di un telefono cellulare e smartphone. Accidenti! Sei un tredicenne buono e responsabile e ti meriti questo regalo. Ci sono però alcune regole per accettarlo. Leggi con attenzione il seguente contratto. Spero tu capisca che il mio compito è di crescerti e farti diventare un giovane sano ed equilibrato, che sappia stare al mondo e coesistere con la tecnologia senza esserne dominato. Se non rispetterai le seguenti regole, non sarai più il proprietario dell'iPhone. Ti voglio molto bene e non vedo l'ora di scambiare con te milioni di messaggi nei prossimi giorni. Allora, Alberto, lei è stata molto carina. Sì, io non so se però il figlio ha voglia di scambiare con la mamma un milione di messaggini. Lo so che mi guardi con quella faccia da mamma e però, dice, insomma. Sì, a me piacerebbe riceverli, però insomma poi crescendo te ne mandano sempre di meno. Comunque mi sembra una cosa che tu consiglieresti ai genitori, questo del, se non proprio un contratto, patticchiare amicizia lunga. Sì, però guarda, io sto proprio sulla parola contratto. Io lo trovo questo approccio assolutamente assolutamente perfetto, perché troppo spesso anche nel mio lavoro di psicoterapeuta io vedo genitori che sono molto attenti, molto protettivi, molto capaci di verificare molto bene i rischi nella vita reale, ma quando il figlio è online è come se non avesse una mamma e un papà. Sì. Cioè la gran parte di noi genitori in questo momento mette in mano uno strumento così potente e complesso, ma mentre il figlio lo utilizza noi non abbiamo un ruolo, noi non siamo mamme e papà della vita online dei nostri figli. Questo soprattutto nella fascia d'età tra i 9 e i 15 anni è invece fondamentale. Non è immaginabile che un bambino a 11 anni abbia la stessa libertà nell'utilizzo di uno strumento così complesso di uno di 15 esatto, o 16. Assolutamente. Senti, di tutte queste regole, sono 15 le regole di questo contratto, noi ne ascoltiamo 3 che tu Alberto hai selezionato. Partiamo dalla prima. Consegna il telefono a uno dei tuoi genitori alle 19:30 in punto nei giorni di scuola e alle 21 nei fine settimana. Resterà spento durante la notte e sarà acceso nuovamente alle 7:30 di mattina. Se non volessi chiamare qualcuno sul telefono fisso perché potrebbero rispondere prima i suoi genitori, non chiamare o non mandare messaggi. Ascolta quell'istinto e rispetta le altre famiglie come noi vorremmo essere rispettati. Allora, Alberto, abbiamo memorizzato questa, le commentiamo tutto alla fine o facciamo... Ma io direi, stiamo su questa perché dà immediatamente un'indicazione chiara, cioè mi verrebbe da chiedere ai nostri genitori all'ascolto, voi avete in mente delle zone della vita dei vostri figli che devono essere zone franche rispetto alla tecnologia? Qua secondo me c'è un accento poi molto importante su essere connessi fino a una certa ora, quando viene sera, ed effettivamente bambini di 9-10 anni o ragazzini di 11 o 12, secondo me dopo le 21, 21 e 30 magari adesso in tempo di vacanza 22, ecco, dopodiché però quando si entra nella zona dove si va in camera da letto e si dorme, il cellulare dovrebbe essere davvero in un altro territorio sconnesso e sarà riacceso soltanto il giorno successivo. Insomma, anche il cellulare, chiamiamolo così, smartphone, si riposa. Esatto, e tra le altre cose si riposano anche i nostri figli, perché in questo momento esistono un bel po' di ricerche scientifiche che dicono che questo essere iperconnessi con la tecnologia, essendo bambini o preadolescenti, e fare questo anche in orario serale, ha portato a molti problemi di insonnia nei nostri figli, e conseguentemente in media rispetto a 10 o 15 anni fa i nostri figli dormono dai 90 ai 120 minuti in meno ogni giorno. Ecco, questo debito di sonno ha delle ricadute, qua ti invito a metterti il camice del dottore, ha delle ricadute importanti sullo sviluppo. Allora, intanto durante l'anno scolastico lo ha rispetto ai loro compiti di attenzione, di ascolto, di apprendimento a scuola. Ha un impatto molto forte anche sulla loro salute fisica, intanto è un fattore di stress, ci sono moltissimi studi epidemiologici che dimostrano una seria correlazione tra sovrappeso, obesità e carenza di sonno, e in generale il sonno è davvero una zona di ricarica. Il sonno è nutrimento, lo dicevano le nostre nonne, lo conferma la ricerca. Andiamo alla seconda regola del contratto. Non usare la tecnologia per mentire, imbrogliare o deridere un altro essere umano. Non prendere parte a conversazioni che potrebbero far soffrire altri. Sii innanzitutto un buon amico e stai lontano dai guai. Questa è proprio una regola, è il cuore, sì, che vale per la tecnologia e anche per la vita di tutti i giorni, anche per chi non è nativo digitale. Digitale, assolutamente, come hai detto tu, se nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, noi dobbiamo aiutare i nostri figli a prevenire il bullismo, attraverso le tecnologie è cruciale che i nostri figli abbiano regole di protezione per loro stessi e per gli altri che permettono di prevenire il cyberbullismo. Loro, quando hanno in mano questa cosa così veloce, fanno milioni di cose senza pensarci su. È molto più veloce l'azione del pensiero che l'ha generata, anzi spesso il pensiero arriva dopo. E a me, devo dire, negli ultimi anni, ma questo è davvero epidemico, è capitato tantissime volte di lavorare con ragazzini tra i 10 e i 14 anni che avevano davvero combinato grandi pasticci, fatto male ai loro compagni. Addirittura c'è una legge in Italia che dice che può essere penalmente perseguibile un minore che fa azione di cyberbullismo, e loro non si rendevano conto, ma come, non io ho fatto solo uno scherzone. Come genitori dobbiamo proprio sostenere un uso più che adeguato, dobbiamo, quando sono i primi tempi che lo hanno in mano, noi dobbiamo anche fare un po' di funzioni di controllo. Questo molte volte ai genitori non è chiaro. Mio figlio pensa che se io lo controllo ho perso la fiducia in lui. Voi vi fidate dei vostri figli, ma imparate a non fidarvi invece della potenza della tecnologia che loro devono usare. Un po' come dire, se vostro figlio ha appena preso la patente a 18 anni, probabilmente non gli date come prima auto da guidare una Ferrari, e per molti mesi starete un po' al suo fianco per verificare che lui ha veramente acquisito uno stile di guida sicura. E andiamo a sentire l'ultima regola che hai selezionato per noi, e che è un modo con cui questa mamma blogger americana cerca di stare vicino, a fianco al suo ragazzo. Non inviare o ricevere fotografie delle tue parti intime o delle parti intime di qualcun altro. Non ridere. Un giorno sarai tentato di farlo nonostante tu sia molto intelligente. È rischioso e potrebbe rovinare la tua adolescenza, la tua vita universitaria o quella adulta. È sempre una pessima idea. Il cyberspazio è vasto e più potente di te, ed è difficile far scomparire qualcosa da questo spazio, inclusa la cattiva reputazione. Senti Alberto, devo dirti che questa mamma mi piace. Mi piace perché ha uno stile di comunicativo efficace, non è giudicante, informa, dà al figlio la possibilità di muoversi in uno spazio protetto, ma gli sembra che gli dia grande libertà, gli trasmette fiducia. Ma allo stesso tempo però fa la mamma, cioè continua a dire al figlio che alcuni aspetti che possono essere generati molto facilmente nella immediatezza con cui interagisci con uno smartphone, per esempio, vanno invece più attenzionati, a volte un po' meditati, più presidiati. Il consiglio qua dentro è prima di tutto insegnare davvero ai figli che la sessualità, essendo la dimensione più intima della nostra vita, non può entrare in un social e non può utilizzare uno strumento che per natura è accessibile a tutti e manca di privacy. Quindi quando facciamo educazione sessuale ai nostri figli dobbiamo adesso includere tutta una dimensione che riguarda i comportamenti sessuali online, che spesso nella loro confusione, eccitazione di questa età, magari vengono molto sollecitati. Il secondo concetto cruciale è quello di impronte digitali. I nostri figli saranno i primi che, quando cercheranno un lavoro fra 5 o 10 anni, verranno studiati non solo per quello che hanno fatto nella vita reale, ma anche per quello che hanno fatto nella vita online. Va davvero spiegato a un figlio, perché se non ha chiarezza su questo non si rende conto che con molte cose che fa sta costruendo un curriculum vitae online che potrebbe diventare un boom quando da grande poi si dovrà muovere in altri territori della vita. Alberto, quando si vanno a trovare amici per trascorrere un po' di tempo insieme a loro sotto l'ombrellone, si portano oltre ai giornali anche dei libri, e tu ne hai portato uno, naturalmente, che attinente al tema che abbiamo trattato oggi, un libro che raccoglie tutte le regole di cui abbiamo parlato e che da poco è stato pubblicato anche in Italia. Sì, direi che questo è proprio un libro must have, come dicono gli inglesi, che tradotto, bisogna avere in questa estate se si è genitori tra i 10 e i 14 anni, perché il famoso contratto di Janel Hoffman, che ha fatto il giro del mondo, si è trasformato in un libro davvero molto chiaro, scritto in un modo comprensibile da tutti i genitori e in alcuni passaggi anche dai nostri figli. Si intitola I Rules, cioè la I sarebbe una I, Internet Rules, come educare figli iperconnessi. L'ha scritto lei, l'autrice del contratto di cui abbiamo parlato fino ad adesso, è pubblicato da Giunti Editore. È un libro che ha fatto discutere davvero tanto negli Stati Uniti, tradotto in tutto il mondo, un libro che ci può fare molto bene come mamma e papà. Mi piacerebbe sapere se poi Gregory il prossimo anno uscirà con un libro per raccontare la sua vita da figlio col contratto, da figlio di una mamma così tu hai già avuto una straordinaria intuizione, perché il libro è in realtà il risultato, questo libro che abbiamo appena consigliato è proprio il risultato di un anno di applicazione delle regole del contratto. Lei che non è tanto un'intuizione, io arrivo sempre dopo perfetta. E vorrei chiudere questa nostra prima parte di Cuore Denari con il messaggio che la mamma scrive per chiudere il contratto con il figlio. La mia speranza è che tu possa essere d'accordo su questi punti. Molte delle lezioni elencate qua sopra non si applicano solo allo smartphone, ma alla vita. Stai crescendo in un mondo veloce e in continuo cambiamento. È eccitante ed attraente. Non ti complicare le cose quando puoi. Fidati della tua testa e del tuo grande cuore più di qualsiasi apparecchio. Ti voglio bene. Spero ti divertirai con il tuo nuovo e fantastico smartphone. Direi una conclusione perfetta di un contratto significa: io ti voglio bene, mi fido di te, ma non necessariamente ti faccio fare tutto quello che a te sembra che ti faccia bene, perché cosa ti fa bene lo decido io. Mi è piaciuto molto anche non complicarti la vita. Dobbiamo insegnarla ai nostri figli. Sì, e soprattutto lo posso dire poi sul poi, cioè molti figli si rendono conto quando il pasticcio è stato fatto che la loro vita è diventata molto complicata e loro non avevano minimamente immaginato che le cose potessero diventare così serie. Alberto, io credo che al di là del contratto è molto interessante lo stile comunicativo di questa mamma. Sottolineiamone un po' le caratteristiche, perché possiamo ispirarci. Tante volte non affrontiamo dei temi con i nostri figli perché non troviamo le parole, perché non vogliamo essere troppo negativi, non vogliamo essere pessimisti, non vogliamo magari presentargli un mondo intorno troppo complicato, difficile, cattivo, e allora rimandiamo. Ma facendo così perdiamo l'occasione. Sì, io direi che il suo stile è davvero assertivo e proattivo, cioè è proprio invitante. Ti do un'indicazione chiara rispetto a cosa io mi aspetto da te, ti do anche delle motivazioni, non parla in astratto, aiuta il ragazzo anche proprio a vedere in parte le conseguenze che spesso sono inimmaginabili quando hai 11-12 anni. Secondo me poi è una mamma che dà un messaggio chiaro al proprio figlio, cioè quello che io in qualche modo mi aspetto da te magari non è quello che tu preferisci o quello che tu mi diresti, ma a me fa stare bene se io posso fare quelle cose. Come genitori non dobbiamo essere troppo preoccupati in alcuni settori di fare stare bene i nostri figli. La nostra preoccupazione è invece sapere chiaro che cosa fa bene ai nostri figli. A volte delle cose che fanno bene non li fanno stare bene, però sono proprio quelle cose su cui noi genitori dobbiamo un po' presidiare il territorio, perché diventa protettivo per loro. Periodo di vacanza, periodo di relazioni, di vicinanza con i nostri figli, che cosa impariamo da questa storia? Ma io direi che da questa storia impariamo che dobbiamo stare al passo con i molti cambiamenti che stanno succedendo, non vale un atteggiamento censorio, e ogni volta che qualcosa di veramente nuovo, innovativo sta per entrare nella loro vita, la domanda per noi deve essere: ma io come mamma e come papà che ruolo mi gioco in questo caso? Cambiamento. C'è una zona di negoziazione, confronto, contrattazione dove mio figlio sente che in quel territorio, comunque sia 12 o 13 anni, ci sono comunque degli la mamma adulti e competenti. Il papà che fanno il loro mestiere. Adesso noi facciamo il nostro mestiere dando la linea ai mercati e poi ritorniamo subito dopo, e vi anticipo con un'artista tra le più raffinate del nostro panorama musicale. A tra poco. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Dall'ascesa dello Stato Islamico all'immigrazione verso l'Europa, dal boom economico dell'Africa ai suoi infiniti conflitti. Giornalisti, fotografi, analisti, politici, operatori umanitari e cittadini saranno ogni giorno ai nostri microfoni per raccontare ciò che accade al di fuori dei nostri confini. Sono Giampaolo Musumeci e anche quest'anno vi dimostrerò che tutti i luoghi meritano di essere visitati, che tante storie devono essere raccontate, che guerre dimenticate e vicende apparentemente distanti sono molto vicine a noi ed entrano ogni giorno nella nostra vita. Vi dimostrerò, insomma, che nessun luogo è lontano. Da lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Cuore e denari. E torniamo a parlare di emozioni, di relazioni, di quel benessere psicologico che serve non solo a noi, ma anche a chi ci sta attorno. Nella prima parte di questa prima puntata sotto l'ombrellone dedicata proprio al nostro benessere emotivo, abbiamo parlato di relazione tra genitori e figli, dei nativi digitali. Adesso ci addentriamo nella seconda parte, un appuntamento molto rilassante insieme ad un ospite di grande prestigio, un artista tra le più raffinate del nostro panorama musicale. Vogliamo introdurvela con un breve estratto dal suo ultimo CD che si intitola Weekend. Devo lasciare la tua mano senza dirti a domani. Niente potrà cambiare il mio legame, anche se devo andare via. Cambiare treno. L'amore. Un brano di François Zardy con il bellissimo adattamento del testo in italiano di Franco Battiato e la partecipazione prestigiosa di Paolo Freso, che dà un tocco raffinatissimo alla magica voce di Alice, che è in linea con noi. Buongiorno Alice, buona estate. Buongiorno e buona estate anche a voi, a tutti voi. Grazie. Vieni anche tu con noi sotto l'ombrellone. Non credo, però diciamo virtualmente sono con voi. Alice, qui a fianco a me c'è un uomo emozionato, come se avesse preso un'insolazione, perché per Alberto Pellai, tu lo sai, sei un mito. Alberto, riesci a parlare? Alberto, buongiorno. Buongiorno Alice, io proprio realizzo uno dei sogni della devo dire che davvero, da quando lei ha cantato Il vento caldo dell'estate, io ero un tredicenne, l'altro giorno, quindi esatto. Io l'ho sempre seguita e devo dire che non possiamo chiamarla cantante, dobbiamo veramente chiamarla artista, signori e signori, con la A maiuscola. Alice, tra l'altro tu sei la prima ospite degli appuntamenti di questa settimana con gli artisti e il titolo del tuo CD è proprio, direi, un titolo perfetto per una settimana di agosto e di vacanze, Weekend, e che è un titolo che, come tutti i titoli, non viene scelto a caso, e neanche questo, ma racchiude un po' la storia di questo progetto. Ce la racconti? Sì, è un progetto che è nato, è stato realizzato proprio quasi, diciamo, esclusivamente durante, non tutti i weekend, ma molti weekend di un anno, no? Prima della pubblicazione di questo album, che è stata l'anno scorso, l'11 di novembre del 2014. E quindi alla fin fine, visto che è un album molto eterogeneo, abbiamo pensato proprio di intitolarlo Weekend, perché è stato appunto realizzato durante questi weekend in una situazione di grandissimo relax, perché come voi sapete durante i weekend di solito tutto si ferma, quindi molta rilassatezza, tranquillità, silenzio e quindi ampio spazio alla creatività, alla musica. Alberto, parlando di Alice, nel preparare la trasmissione, c'è una parola che tu hai usato e che secondo te racchiude bene il suo percorso artistico, ma anche il percorso che l'ascoltatore di Weekend può fare nel muoversi tra i brani di questo progetto. Ma guarda, io proprio penso che la parola che più si addice è equilibrio, nel senso che io trovo che Alice sia una sintesi perfetta tra dentro e fuori, tra quello che vedi e quello che non vedi però intuisci, e anche dentro a questo progetto musicale direi proprio quasi un percorso di musicoterapia per i nostri ascoltatori, perché c'è la possibilità intanto proprio di lasciarsi piano piano incantare dall'andamento musicale, cioè c'è proprio una ricchezza ma allo stesso tempo una rilassatezza dentro alle tracce musicali. E in realtà, se poi cominci ad ascoltare le parole, fai un vero viaggio anche dentro te stesso. Ci sono così tanti aspetti del quotidiano raccontati con una visione alta che secondo me, insomma, è come leggere un libro, ascoltare una buona musica, stare in una zona meravigliosa e tutto dentro un CD. Alice, la conquista di questo equilibrio di cui parla Alberto e che tu testimoni in molti modi è il risultato di un tuo percorso personale. Tu sei davvero un artista che sembra aver trovato una perfetta sintesi tra pubblico e privato, perché sei amatissima ma al tempo stesso non sei stata mai in balia della tua carriera, non hai mai seguito il successo o la popolarità, anzi direi che tu hai fatto delle scelte molto particolari che sono un po' la tua cifra artistica. Beh, devo dire che fin dall'inizio mi sono resa conto che il pericolo, dopo un successo molto, molto ampio e una popolarità molto ampia che io ho avuto nei primi anni Ottanta, il pericolo era quello di dover rinunciare in qualche modo a vivere così come io invece ami fare, certo. Ho sempre sentito dovesse essere la vita, e quindi la musica come elemento essenziale della mia vita, ma aspetti commerciali che inevitabilmente e fortunatamente devo dire accadono quando si raggiunge un risultato, diciamo che li ho visti, ho avuto questa fortuna di vedere e quindi di fare delle scelte, perché ho scelto la vita con a 360 gradi e non solo parziale, quindi esclusivamente dedicata a una professione e in un certo modo, in quanto spesso accade che dopo magari un brano di grande successo ci sono delle pressioni discografiche che cercano di farti ripetere sempre lo stesso brano all'infinito, no? E questo per me è stato fin da subito assolutamente impensabile, in quanto musica, creatività è un aspetto della mia vita, non potevo rimanere ingabbiata in un elemento, no? E quindi ho avuto anche la fortuna di fare degli incontri molto importanti, grazie a questi incontri io ho potuto poi anche lavorare, fare delle scelte e proprio supportata da persone come Francesco Messina, che poi è diventato anche il mio compagno di vita, che è tuttora, e mi ha aiutato moltissimo a perseguire i miei obiettivi. Alice, proprio pensando alla parola equilibrio, c'è stato un momento nella tua carriera quando hai vinto Sanremo che tu eri veramente un po' dappertutto, cioè hai avuto un grande successo anche all'estero, eri sempre in giro, poi improvvisamente una svolta molto significativa, sei veramente diventata anche molto privata, molto ritirata, un passaggio che tu hai spiegato bene come necessario, ma c'è stato un momento quando tutto andava così veloce dove hai avuto paura un po' di romperti proprio dentro, di non farcela reggere tutto questo? No, questo no. Però ho sentito che la fatica, proprio la fatica di questo continuo girovagare, di questa tensione costante che ovviamente subisci e vivi e generi anche, no? non era più possibile per me poter continuare a vivere a quel a quella velocità, diciamo così. Alice, però è stato tipo di tensioni. Scusami Alice, vorrei tornare, è stata una scelta coraggiosa e mi ha colpito che tu abbia sottolineato che è stata resa possibile anche dal fatto che tu hai avuto delle persone a fianco che ti hanno sostenuto, e questo è una cosa molto bella e fondamentale nella vita, non solo di un artista, ma anche nelle scelte così un po' impegnative, non solo dicevo nella vita di un artista, ma nella vita di ciascuno di noi, quando ci troviamo di fronte a delle scelte impegnative, che avere a fianco una persona che non dico che ci debba sostenere, ma insomma che ci accompagni. Mi sembra che tu abbia sottolineato questo ruolo del tuo compagno, delle persone che ti sono state vicine, no? Di compagni a fianco a te. Sì, è stato, credo che sia fondamentale per tutti, ecco, per me lo è stato, ma tutti gli eventi della mia vita, parliamo della mia vita professionale in questo caso, ci sono stati degli incontri fondamentali, anche quelli che non hanno, diciamo, prodotto il risultato sperato, quindi incontri precedenti agli anni Ottanta, e quindi collaborazioni che mi hanno aiutato anche a capire dove volevo andare e quello che, non solo quello che volevo fare, ma anche quello che non volevo fare, perché comunque io ho cominciato a cantare che ero una ragazzina, e poi il primo disco che ho registrato avevo 17 anni, quindi ancora non avevo la, diciamo, certo, eri davvero piccola, no? Come si dice, ma è così piccola, però passetto dopo passetto, esperienza dopo esperienza, con l'affiancamento, con il contributo di amici, di persone che ti sono state vicine, poi ciascuno di noi cerca il suo equilibrio. E c'è un brano, vorrei tornare proprio a questa parola chiave che Alberto ha ben sottolineato, c'è un brano che anche vocalmente una testimonianza di perfetto equilibrio tra la tua splendida voce, quella affascinante e anche un po' mistica di Franco Battiato, che ora ascoltiamo insieme. Quando stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio, sei una parte di ogni parte, niente fuori da tutto. Quando vivi tu sei un centro di ruota e i tuoi raggi sono raggi di vita. Alberto, questo è un testo che ci ha conquistato, ti piace particolarmente, e come spesso dici anche nel nostro programma, un vero e proprio esempio di musicoterapia che seguiremo anche nella seconda parte del nostro programma dopo le informazioni sulla viabilità. Sì, se lo ascoltate con attenzione, io credo che il messaggio di questo brano e la verità che c'è dentro a questo testo è: la realtà non esiste, si intitola così, ma la realtà di per sé è una serie di dati oggettivi, ma poi la facciamo diventare attraverso quei dati oggettivi la nostra soggettività. Quindi la realtà è ciò che noi ci raccontiamo di quello che ci succede. E noi continueremo a raccontarci dopo le informazioni sul traffico. A tra poco con Alice. Cuore e denari. Quando stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio, sei una parte di ogni parte, niente fuori da tutto. Quando vivi tu sei un centro di ruota e i tuoi raggi sono raggi di vita. Puoi girare solo intorno al tuo perno o puoi puoi scegliere. La realtà non esiste. Se vi siete collegati con noi solo ora, sappiate che in linea con noi abbiamo il piacere di avere Alice. Alice, eccoti di nuovo insieme a noi. Ciao, ciao, ciao. Allora, Alberto commentava: la realtà non esiste, una testimonianza di perfetto equilibrio tra la tua splendida voce e quella di Franco Battiato, un testo che Alberto suggeriva proprio come percorso di musicoterapia, ma vorrei avere anche le tue indicazioni su questo testo. Ma è un brano, prima di tutto volevo dire questo, che è un brano di Claudio Rocchi, è stato un brano molto famoso a suo tempo, purtroppo Claudio ci ha lasciato non troppo tempo fa, prematuramente, e ha scritto delle pagine meravigliose, tra cui appunto La realtà non esiste, che è una è molto di più di una canzone, ecco. In tutte le tracce di questo CD, ma in realtà un po' in tutte le, il tuo modo di lavorare, di proporre brani al tuo pubblico, c'è davvero molta ricerca anche rispetto all'interiorità, al percorso che ognuno fa di se stesso e con se stesso, e intanto allo sguardo che lancia intorno a sé, la natura, il mondo, il significato della vita. Quanto è stata importante la spiritualità nel tuo percorso di vita? Fa parte della mia vita, non è che è stata importante, è importante, è essenziale. Tra l'altro, scusa Alberto, Alice ha fatto dei bellissimi concerti legati proprio al tema della ricerca interiore. E ho fatto dei concerti in passato proprio per La musica dei cieli, che è una rassegna musicale milanese, e lì devo dire che ho avuto proprio la fortuna e il piacere di realizzare un po' il mio desiderio fin di sempre, diciamo, e quindi la possibilità di cantare in luoghi sacri. Con un progetto, God is my DJ, dove appunto io cantavo, c'era la ricerca del sacro nella musica e non musica sacra. E tu che hai questa, direi proprio, profondità, tranquillità, serenità, in un tempo che va così veloce, dove trovi lo spazio per rimanere in qualche modo quella che sei? E penso soprattutto all'estate, tu che già vivi in una zona piena di natura, molto, cos'è l'estate per te? È uno spazio di continuità col resto dell'anno, oppure anche tu hai un tuo angolo? È una stagione che amo come le altre, tra l'altro. Per me è anche motivo di di lavoro in certi casi, più che in altri momenti dell'anno, oppure semplicemente c'è una continuità. Sono anni che non vado in vacanza, quindi non vivo l'estate come un momento per rigenerarmi. Nello stesso tempo è proprio la stagione che aiuta a rigenerarsi, per cui ogni attimo è buono, per così dire, no? Alice, ma tu ti ritagli delle mini vacanze nella tua giornata? Assolutamente sì. Ad esempio? Beh, sono dei momenti, sì, delle fasi in cui mi fermo e dedico un attimo del mio tempo a me stessa con maggiore consapevolezza. Ecco, una parola, consapevolezza. Beh, è una parola chiave anche in questo momento, anche nel mondo della psicoterapia e della psicologia, la chiave di tutto sembra essere consapevolezza. Vogliamo però darne un significato preciso e concreto, perché è una parola che è un po' abusata di questa, si usa in tanti campi e in tanti modi. Allora, prendiamo consapevolezza che dobbiamo essere consapevoli di, allora con la consapevolezza, Alberto. Questo, allora, potrebbe essere una buona sfida per quest'estate, per queste vacanze, prendere consapevolezza che... Te lo spiegherò in termini un po' psicologici, e poi ci sarà una canzone di Alice che abbiamo scelto che probabilmente la racconta anche in modo musicale. Allora, in generale, quando noi siamo poco consapevoli è perché non abbiamo trovato il giusto equilibrio tra la nostra parte emotiva, quella dove cioè noi sentiamo la vita, vita attraverso il codice delle emozioni e la nostra parte cognitiva, cioè quella dove noi produciamo pensieri e significati. Quindi quando siamo davvero poco consapevoli, noi siamo in balia delle emozioni in moltissimi casi, che ci fanno fare cose di cui magari dopo un giorno, un mese, un anno ci pentiamo perché non eravamo veramente noi stessi. Quanto più invece quello che sentiamo acquisisce spessore e valore in funzione dei significati che sappiamo attribuire grazie alla parte più alta della nostra mente, la parte cognitiva, ecco lì abbiamo un funzionamento integrato e a quel punto nella vita siamo consapevoli. E sai che c'è un grande psicologo che proprio parla di consapevolezza e che dice che noi possiamo riconoscere le persone che vivono in modo consapevoli perché hanno due attributi fondamentali: sono gentili e sono generosi. Gentili e generosi, e riescono a vivere nel qui e ora, nel come qui ed ora. Insegna Kabat-Zinn. Esatto. E allora c'è un brano di Weekend che ci aiuta ad avvicinarci a tutto questo mondo così vicino, da cui noi non si sa bene come mai cerchiamo in qualche modo di stare lontani. Andiamo. Quando senti le canzoni che tu hai interpretato e interpreti, che effetto ti fa? Ma normalmente non è che posso dire di provare emozioni, semplicemente mi ricollego al momento in cui brava, l'ho registrata, l'ho vissuta. È lì che io voglio andare con te, Alice, perché ci devi un po' aiutare a portarci in quel momento, perché stiamo facendo un percorso di musicoterapia insieme a te ad Alberto Pellai. Una splendida Comunque, occasione. Prima volevo dire una cosa, prima a proposito della consapevolezza, quindi dei momenti, dedico dei momenti di consapevolezza a me, no? La consapevolezza di cui parlo è anche qualche cosa d'altro rispetto a quello che è stato detto, quindi cercare un contatto veramente più profondo con se stessi e con la vita che c'è dentro e fuori di noi. Quanto stare immersi nella natura aiuta questo processo e quanto ha aiutato te? Beh, è molto, sicuramente molto utile, perché è la forza della vita alla quale non puoi, la senti, mentre quando si vive in città, immersi ovviamente nelle proprie mansioni quotidiane, è più difficile, ma non impossibile. È molto più difficile, ma non impossibile, perché la vita si manifesta comunque sempre. E direi però la natura è un elemento che aiuta tantissimo, come anche per esempio stare a contatto con gli animali. Per imparare ad amare bisognerebbe prima imparare ad amare le piante, poi gli animali, e poi forse si riuscirà ad amare gli esseri umani. Alice, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Non l'ho detto io questo, questo è qualche cosa che mi è stato detto dal mio maestro tanto tempo fa, che mi colpì moltissimo quando me lo disse, perché non ero ancora in grado di comprenderne la forza e la portata, ma devo dire che col passare degli anni mi sono resa conto che effettivamente c'è una grande verità nelle cose semplici, Alice. vero? Sì. Perché è una pianta, ciascuno di noi ha una pianta anche nel suo balconcino metropolitano, un animale che può essere anche un animale che incontriamo per strada, il cane del nostro vicino. Io devo dire che sono fortunata perché ho molte piante nel mio balconcino e un grande cane che devo dire mi tiene molto impegnata anche su questo fronte. Grazie Alice per essere stata con noi. Grazie a voi. Comunque sai perché? Perché veramente si impara ad ascoltare. Alice, cosa non semplice, grazie a voi, buona estate, buon tutto. Alberto si è anche ripreso. Sì, Alberto. Assolutamente Alice, allora spero non fra 30 anni, ma prima, al prossimo progetto ci riascolteremo. Buona giornata. Grazie. Da Alice, grazie anche a voi, grazie, ciao. Buona giornata da Alberto Pellai, che adesso lasciamo tornare a casa, ma domani si ritorno sotto il tuo ombrellone, sotto l'ombrellone, per incontrare un nuovo personaggio e per affrontare nuove sfide. A domani.